A Tempo di Sport con Massimo Callegari. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, bentornati. Il rilancio è questo il titolo più inflazionato, non in borsa naturalmente, ma sui giornali di oggi, dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri del Milan con Adriano Galliani, Barbara Berlusconi e Massimiliano Allegri, oltre ai nuovi acquisti in prima fila. Ne parleremo naturalmente con voi al 800 24 0024 per le telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS, e con Marco Bellinazzo, che ieri era presente a Milanello. Bentornato. Ciao Massimo, buongiorno a tutti. Adesso sentiamo Adriano Galliani e poi ci dici che clima hai trovato e quali sono poi le tue sensazioni a medio e lungo termine per la gestione del Milan dopo e nonostante la sentenza sul lodo Mondadori. E non ci lasceremo. Presidente Berlusconi non solo rimane, ma rimane con l'entusiasmo, con la voglia e con tutto quello che ha sempre fatto in questi 25 anni. Quindi vogliamo ora serenare i nostri tifosi e andare avanti a seguire la sua creatura con la passione, l'entusiasmo e le risorse che non ha mai fatto mancare al nostro club. Quindi io continuo a dire che il Milan, fino a che il presidente sarà e il proprietario sarà Silvio Berlusconi, potrà dormire sonni tranquilli. Ebbene, ho trovato nel presidente assolutamente l'innamorato di sempre del Milan, quindi con la stessa voglia di questi 25 anni. No, ma è inutile parlare di mercato. Voi giustamente dovete parlare di mercato, ma noi dobbiamo evidentemente. Io continuo a pensare, non dobbiamo sempre pensare al mercato, pensiamo alla squadra che abbiamo. Ripeto, è una squadra competitivissima. Se voi pensate un po' a chi è partito e chi è arrivato, troverete che il Milan si è rafforzato notevolmente. Noi siamo al completo, se ci saranno delle opportunità le coglieremo come le abbiamo sempre colte negli anni scorsi. Questo è Adriano Galliani ieri, poi sentiremo anche Massimiliano Allegri su questioni più strettamente tecniche. Marco, hai sentito le parole di Adriano Galliani, quali sono le tue considerazioni? Ma credo che se il problema veniva in qualche modo individuato ieri in questa spada di Damocle, no, del lodo Mondadori e di questi 560 milioni che la Fininvest dovrà pagare alla CIR di De Benedetti, diciamo, è un falso problema perché con il fair play finanziario le società, e quindi anche società importanti, soprattutto società importanti come il Milan, devono reggersi da sole finanziariamente, quindi non c'è più la necessità e anzi un divieto sostanziale che entrerà poi progressivamente in vigore di ricapitalizzare e finanziare le società da parte di chi le possiede. Quindi il Milan dovrà reggersi da solo, il Milan dovrà essere capace, e Galliani ieri lo ha ribadito più volte, di generare ricavi tali da sostenere le spese. Il problema semmai è un altro, quello di un calcio italiano che non può più crescere, che non riesce più a crescere, che ha tutta una serie di problemi che sono stati ieri elencati da Galliani, che dice sempre che i giornalisti non lo ascoltano su questo punto. È difficile farlo capire ai tifosi, me ne rendo conto, però come dire, pensate che poi c'è un mio amico che dice: bravissimo quel tuo collega, però il calcio è sogno, evasione, qui a forza di parlare di numeri spegni tutti i sogni. Le mie qui sono sedute di autocoscienza, io vengo qui come dire, parlando di numeri, io sono come dire il fanciullino che in me vorrebbe tifare, credere nei sogni. Io sono cresciuto con Napoli di Maradona, vorrei che ci fosse sempre Maradona in campo nella mia squadra del cuore, però so anche che quella squadra poi è fallita, ha ricominciato dalla C ed ha ripreso un cammino che è basato sull'equilibrio economico e finanziario, e quindi, come dire, scottato da un sogno bruciato, io mi sforzo insomma di citare numeri e di più che altro insomma far sì che i tifosi, quelli che sono poi realmente interessati a un calcio serio e strutturato, mi sembra un po' di essere Lotito quando faccio questi discorsi e non vorrei esserlo, come dire, abbiano la possibilità anche di capire fin dove le squadre italiane possono arrivare, quello che possono fare, quali sono i problemi. una squadra che ha 200 milioni di fatturato come il Milan, l'Inter, la Juventus, sempre più difficilmente potrà competere con squadre, quelle europee, le big europee, che ne hanno 400-500. Questa è la dura realtà alla quale dovremo, come dire, rassegnarci. Barbara Berlusconi, con la quale tu poi hai parlato come altri colleghi naturalmente nella giornata di ieri, prima della sua intervista in esclusiva Sport Mediaset, ha detto tra le altre cose: non mancherà l'impegno del gruppo per il Milan per raggiungere tutti i prestigiosi obiettivi che ci siamo dati. Sono convinta che l'amore di mio padre per il Milan sia più grande. Cosa significa, al di là e oltre a queste parole, la sua presenza sempre più importante all'interno del club e delle dinamiche di gestione del Milan? Beh, sai che sono circolate voci, non solo adesso, anche nei mesi scorsi, di cessioni, di quote, di possibili, anzi quotazioni in borsa del Milan per recuperare capitali. Barbara ieri ha ribadito, con la sua presenza sempre più assidua nelle occasioni che contano per il Milan, e tra l'altro siede insomma da qualche mese nel consiglio di amministrazione del Milan. Questa sarà la prima stagione dall'inizio di Barbara Berlusconi nella plancia di comando del club di Via Turati. Ribadisce l'impegno della famiglia Berlusconi. Non credo che Berlusconi abbia la minima idea, insomma, di cedere quello che è il suo gioiello, quello che ha acquistato nell'86 in un'aula di tribunale, un po' il parallelo con il Napoli qui torna, e che ha portato ad essere il club più titolato al mondo, come Galliani spesso e volentieri ribadisce. Credo che se dovrà cedere le cose sia l'ultima al Milan. Ripeto, però il problema non è il lodo Mondadori, il problema è trovare un equilibrio finanziario che in questo momento i club italiani stentano a trovare. Ieri Adriano Galliani ha parlato anche di stadio, ha detto la Juve è riuscita a Torino a trovare le vie giuste per farsi uno stadio da sola, però quella è una realtà un po' a parte. Cosa significa questo? Beh, la storia dello stadio e la Juve è un po' particolare, perché ora in estrema sintesi lo stadio costruito per Italia 90 fu costruito da una società che poi è fallita. Il comune di Torino ha potuto acquisire quell'area e quelle strutture, quindi ha potuto cederle, diciamo, a prezzi non esorbitanti. Torino peraltro si giovava di una situazione particolare, cioè avere più stadi, alcuni dei quali poi ristrutturati per le Olimpiadi del 2006, e dunque era una situazione molto favorevole alla Juventus, che poi è stata assolutamente capace di sfruttare la situazione e potrà giovarsi da qui in avanti di 10-20 milioni in più di entrate ogni anno. Ok, ci arriviamo poi anche sulla questione dello stadio, non solo relativamente alla Juventus e all'Italia, ma soprattutto rispetto a questo caso molto particolare che si sta stagliando sulla realtà inglese del Manchester City. Poi le vostre telefonate all'800 24 0024, messaggi sms 349 238 6666, andremo in Inghilterra, poi ci sarà spazio anche per il Tour de France che domani entra nel vivo, ma ci sono naturalmente dubbi e perplessità sulla tenuta fisica di Alberto Contador dopo le numerose cadute nella prima parte della Grand Boucle, mentre il nostro collega e amico Filippo Maria Ricci su Twitter scrive: fenomenale debutto di Bielsa in conferenza stampa, la Liga ha trovato un tesoro, allenare l'Athletic di Bilbao, era questo insomma l'impegno personale che aveva preso e che non gli ha permesso di prendere altri impegni con l'Inter quando Moratti aveva cercato di contattarlo, saputa della volontà di Leonardo di lasciare l'Inter. Un tesoro l'ha trovato anche in Manchester City, tra un attimo ci torneremo Marco, però vorrei capire, perché questo poi alla fine interessa ai tifosi, se secondo te ci saranno investimenti importanti in questo mercato da parte del Milan o meno? Temo di no. Galliani ovviamente di mercato non ha voluto parlare, sai che è stata scandita tutta questa prima fase dal Mister X evocato, sì, dallo stesso amministratore delegato del Milan. Lui ha lasciato uno spiraglio per l'ultima finestra, gli ultimi giorni. Il Milan ormai è quasi per tradizione il protagonista del finale del calciomercato, ha piazzato due colpi che gli hanno permesso di vincere lo scudetto, Ibra e Robinho, lo scorso anno. Quest'anno è molto più complicato, sicuramente però posso dire insomma che il Milan ci proverà a piazzare qualche colpo importante, un'occasione dell'ultima ora dovrà coglierla, anche perché ieri in quella conferenza stampa seduti al tavolo c'erano Mexes, Taiwo, Paloschi ed El Shaarawy, insomma ottimi giocatori, sì. Però mi rendo conto che i tifosi del Milan sognano altro. Sì, è anche vero che il giocatore più decisivo, tra i più decisivi dell'ultima stagione del Milan, è stato Boateng, che non era arrivato sicuramente con grandi aspettative. È vero che Taiwo, oltre ad avere la dinamite stippata nei quadricipiti, quando calcio in porta ha un passo incredibile e va a coprire una lacuna importante sul piano tecnico nel ruolo di terzino sinistro, che Mexès è la prima alternativa a Nesta, e se riuscirà a limitare un po' le sue uscite di senno sarà un difensore fondamentale. Paolo da Como, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Volevo fare una domanda al dottor Berinazzo, sì, sul fair play finanziario. Se io sono presidente di una società o diverse altre società di affari o cosa, non posso entrare come sponsor? Invece di ricapitalizzare, entro come sponsor e do dei soldi alla mia società. Lei ha colto il problema che si sta venendo a creare, e tra un po' ne parleremo, no? Volevamo parlarne a proposito del Manchester City. Sì, anche subito. Beh, c'è il problema delle sponsorizzazioni / false ricapitalizzazioni, cioè invece di ricapitalizzare, come giustamente ricordava l'ascoltatore, si può fingere una sponsorizzazione. Platini ha detto che le sponsorizzazioni saranno sotto l'occhio vigile della UEFA, cioè le squadre dovranno dimostrare che effettivamente quelle servono per rilanciare o rivitalizzare il marchio della società, e quindi saranno tenute d'occhio, mentre chiaramente se la UEFA si accorgerà che invece lì c'è un inganno, c'è l'imbroglio, interverrà con delle sanzioni che devono essere ancora stabilite, ma c'è un tema importante. E c'è sullo stadio del Manchester City questo dubbio? Questo dubbio immagino di sì, anche perché il Manchester City è una, diciamo, delle squadre canaglia, se vogliamo riprendere altre espressioni, cioè di quelle squadre che si reggono sulla generosità dei propri padroni, dei proprietari, che spendono e spandono avendo poi i petrodollari alle spalle, e per evitare proprio l'invasione di questi capitali, i club più prestigiosi d'Europa, e mi riferisco qui al Real, Barcellona, lo United, il Bayern Monaco, hanno cercato di porre un limite appoggiando il fair play finanziario. Lì il rischio è che invece si cristallizzi quella situazione di ricavi e uscite, cioè io ho tanti soldi, ho i campioni, vinco sempre più soldi, quelli che invece non hanno tanti soldi e non possono permettersi i campioni continueranno a non vincere, e dunque avremo sempre semifinali di Champions con Real, Barcellona e Manchester. La speranza è lo Schalke 04, cioè la sorpresa che in qualche modo sovverta quest'ordine, però il problema, insomma, è stato colto, quello delle sponsorizzazioni. Tra un attimo penso ci sia qualcuno che vorrebbe parlare anche di mercato della Juventus, e gli daremo spazio. Nel frattempo sta parlando ancora Allegri in diretta per la conferenza stampa dedicata solo a lui, rinforzi a centrocampo, giocatori tecnici e da Milan sono sempre bene accetti. Montolivo è un giocatore importante da grande squadra, ha ottime qualità, anche se mi risulta che fosse un po' fredda la posizione del Milan almeno qualche mese fa sul giocatore della Fiorentina, e vedremo. Robinho sa fare benissimo anche il trequartista, può essere una soluzione in più per la stagione, probabilmente, questo lo aggiungo io, non ideale. Sentiamo però le cose principali che aveva detto Allegri anche nella giornata di ieri, che riassumono tanti concetti che sono poi quelli che sta ripetendo ora. L'ultima partita ha fatto una buona partita, però credo che un giocatore vada seguito e non può essere giudicato per una partita sbagliata o una fatta bene. Ganzo è un giocatore giovane, è uno dei giovani emergenti del calcio mondiale, ha delle ottime qualità, così come Danilo, che è un buon giocatore, però credo che non ci sia bisogno di Allegri a dire che Ganzo è un buon giocatore. Credo che Cassano è un giocatore sarà molto importante per il Milan, come l'è stato nei sei mesi che ha giocato qui al Milan da gennaio, quando è arrivato. E questo lo vedremo, se lo chiederà. Io credo che non lo crederà, perché Cassano è molto contento di rimanere al Milan, noi siamo contenti di avere Cassano, e quindi credo che non ci sarà questo. Questo era Massimiliano Allegri, insomma, su Cassano e su altri, anche se l'ultimo brano era leggermente abbreviato. Poi su Ganso l'avete sentito, è molto atteso questa notte in Brasile, Ecuador, gara decisiva per altri. Brasile anche con un pareggio è qualificato, poi come seconda, terza, eventualmente come prima se vince il girone, poi tutti gli accoppiamenti di seguito. Di certo sabato a mezzanotte e 15, tra la giornata di sabato e quella di domenica, ci sarà il classico Rio Platense tra Argentina e Uruguay dopo i risultati dell'ultima notte di Coppa America: 1-0 del Cile sul Perù, 1-0 dell'Uruguay sul Messico. Cile primo, Uruguay secondo, Messico fuori, Perù terzo e qualificato assieme a un'altra squadra come migliore terza. Anche la Juve aveva New Holland come sponsor, è la stessa cosa del Manchester City, chiede Andrea da Pinerolo? Non esattamente, però per esempio la Juve sta cercando di valorizzare il proprio stadio trovando uno sponsor che assuma la denominazione dello stadio. L'hanno fatto tante squadre, dovrebbe essere assolutamente legittimo, però è chiaro, ripeto, che la UEFA per ammissione, lo stesso Platini terrà d'occhio in particolare tutte queste situazioni, perché effettivamente si possono nascondere degli escamotage per evitare le regole del fair play finanziario. Perché il City, insomma, dà al suo stadio il nome dello sponsor che è uno di quelli principali della proprietà, e quindi è chiaro che se lo sponsor ha anche delle partecipazioni societarie e quindi è inquadrabile tra i proprietari, magari non nella maggioranza, però comunque fa parte di chi detiene, diciamo, le azioni di quella società. Nel momento in cui è anche sponsor, evidentemente ha un canale alternativo per evitare di ricapitalizzare, che con il sorpreso finanziario non si può fare se non in limiti molto precisi, e appunto passa attraverso la via della sponsorizzazione. Ma questo problema è che alla fine il fair play finanziario non comporta al momento sanzioni precise e che dà l'idea un po' come altre soluzioni decise dalla UEFA di essere anche un po' demagogico a tratti, è una considerazione legittima o no? Allora, il problema non è che le sanzioni non sono previste, non sono state per il momento graduate, nel senso che la sanzione massima è l'esclusione dalle competizioni europee, quella sarà stabilita. Tra due anni ci sarà una sorta di controllo da parte del panel della UEFA dei bilanci degli ultimi due tornei, e quindi a partire anche dal calciomercato che si sta facendo, e per le squadre che sono non in linea, che già sforano quel tetto dei 45 milioni iniziali, sarà previsto una sorta di piano di rientro, sarà imposto, almeno questo è nel programma della UEFA, di vendere giocatori piuttosto che trovare un nuovo equilibrio nei conti. Quindi le squadre dovranno ridimensionarsi, dunque non c'è una sanzione in quanto tale, ma ci sarà l'obbligo di un piano di rientro, è quello che avviene a livello europeo con l'Unione Europea e gli stati. Chiaramente si può prendere seriamente queste regole, poi avviene il caso Grecia che travolge i mercati e si capisce che non era più tanto uno scherzo. Per cui, insomma, le regole ci sono, poi se si vogliono rispettare si rispettano, altrimenti si fa finta di niente, finché poi non si metterà le mani nel portafoglio anche dei club. Fabrizio da Arezzo, prego. Buonasera dottor Callegari, buonasera dottor Belinazzo. Volevo fare due osservazioni sulla Juve, una sul mercato e una sulla Facciopoli, volevo un vostro parere. Riferimento soprattutto alla trasmissione di ieri. L'inviato di Bardonecchia ieri parlava di attaccanti, ma non ho sentito parlare di un forte difensore centrale. Sì, ha ragione. Che secondo il mio parere, dato che l'anno scorso siamo stati la squadra che ha subito più reti in casa, insomma, la Juve necessiterebbe, a mio parere, anche di un forte difensore, perché Bonucci, Barzagli, per carità, ottimi per la rosa, ma non vedo ancora insieme a Chiellini, che secondo me poi, io la mia teoria su Chiellini sarei stato per fare cassa, per venderlo in Inghilterra, anche lui, prendere forze prese. Comunque, ripeto, poi un piccolo inciso sulla trasmissione di ieri su Calciopoli, la penso perfettamente con un ascoltatore che intervenne all'ultimo, dove dice che noi bisogna mettere, resettare questo discorso, basta, tanto è emerso che lo scudetto non c'entra niente, bisogna cavarsi dalla testa queste cose, gli interisti sanno perfettamente che tanto questo scudetto se lo possono tenere, che intercettazioni che venivano fuori nel 2006 avrebbero causato, basta, tanto bisogna chiudere il libro, no? Senza stare sempre a far polemica e continuare a guardare il calcio per quello che è un bello sport, tutto qui, ecco. È vero, ha fatto bene Fabrizio anche a ricordare questa osservazione che ieri era stata un po' coperta dalla necessità di essere rapidi in chiusura di trasmissione. È vero, il problema è che devono essere per primi i dirigenti a dare questo indirizzo da una parte e dall'altra, e chissà mai quando Calciopoli nella testa dei dirigenti della Juventus e in parte minore di quelli dell'Inter finirà, e chissà quando appunto questo accadrà, forse solo quando la Juve tornerà a vincere sul campo. Sul discorso dei difensori lei ha pienamente ragione, serve anche il centrocampista che potrebbe anche essere Sissoko, ma il problema è che quelli che sono in rosa adesso sono stati talmente svalutati sul mercato, nel senso che sono chiaramente tutti in vendita, che sembra difficile poi poterli recuperare. Marco, sei soddisfatto della presentazione di Inler da parte di De Laurentiis per il tuo Napoli? Poi ti salutiamo. Beh, è stata molto, molto bella scenografica e soprattutto colma una lacuna che il Napoli aveva e mi fa ben sperare. Poi 16 milioni non sono tanti per Inler. Poi questa Udinese pazzesca, sono usciti dei numeri oggi impressionanti, no? 3 milioni per acquistare Sanchez, Zapata e Inler, 65-66 per venderli tutti. In questo momento è la regina del mercato, ha incassato oltre 60 milioni, è una politica che puoi fare a Udine, non in altre piazze, però è un esempio assolutamente virtuoso in linea con i suoi play finanziari. Il calcio italiano a partire dall'Udinese deve diventare un calcio esportatore, allevare talenti e venderli, altrimenti non ha le forze, ripeto, per competere con i grandi club europei. Grazie, a presto Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Buon lavoro, buona estate. Alberto da Udine: per noi tifosi udinesi la tristezza è enorme, tutti elogiano la società e gli enormi guadagni, ma dal punto di vista sportivo continueremo a non vincere assolutamente nulla. Arriviamo a un passo dal sogno e puntualmente il nostro presidente annulla e spolpa la squadra. Che dolore! Effettivamente, questo è un aspetto che viene sottolineato molto meno rispetto ad altri, forse perché l'idea di chi non segue l'Udinese direttamente e soprattutto non da tifoso è un po' più distaccata, un po' più oggettiva. Però effettivamente, se pensiamo che la squadra è giunta quarta nello scorso campionato, che ha fatto molto bene con alcuni giocatori che insomma hanno ancora margini di miglioramento, poteva essere una chance per avvicinare ulteriormente il grande sogno. Però il presidente Pozzo ha questa visione complessiva, peraltro non che la prossima Udinese sia già certamente inferiore e non ci siano giocatori di valore nella prossima rosa, perché ad esempio Dubai, che arriva dallo Young Boys, è un centrocampista che, come diceva il mio amico Paolo Di Cagno spesso nelle domeniche pomeriggio su Premium Calcio, è un animale, riferendosi a tanti altri giocatori, compresi Asamoah, lo stesso Inler, Armero, cioè un animale calcistico di grande forza fisica ma anche di ottima qualità, e quindi è già un sostituto che l'Udinese ha preso. Oreste da Milano, prego. Buongiorno, senta, io sono un anziano guardone di calcio e vado, tifoso dell'Inter, e vado a San Siro a vedere sia l'Inter che il Milan. Allora, vorrei fare una precisazione di questo tipo. Il più grande acquisto del Milan dell'anno scorso si chiama Massimiliano Allegri, ragazzi. Cioè, questo signore gioca con quattro mediani che proteggono la difesa, giustamente, intelligentemente, e la gente non se ne accorge, perché purtroppo, no, questo no. Come no? Allora, guardi la figuraccia che sta facendo la difesa del Brasile con il Lucio, tanto celebrato da noi, che a me non è che mi convinca molto per le sue dicenze. Sì, vabbè, Oreste, non è una novità, nel senso che anche Real Madrid, veramente, anche il grande Real Madrid dei Galacticos non ha vinto praticamente per un biennio, un triennio, quando aveva Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, tutti insieme, perché non avevano difesa. Ma non è che la gente non lo noti questo, però, mi scusi, ma la difesa l'ha inventata Allegri proprio a casa del Milan, perché tutti gli altri allenatori, Ancelotti, che è un grande allenatore, per l'amor di Dio, non giocavano con il Milan di Allegri. E io lo vorrei tutta la vita un allenatore all'Inter come Allegri. Ultima cosa, non voglio tediarvi, ma se lei guarda lo schieramento tattico di Benitez e di Leonardo nel derby, capisce subito per quale motivo Allegri ha stravinto il campionato. Allora, Benitez marcava a zona Ibrahimovic, Allegri ne aveva fatto una gabbia con tre su Eto'o e ha vinto tranquillamente la partita all'andata. Al ritorno Leonardo ha messo quattro punti e Zanetti terzino. È vero, questo è vero. Peraltro, insomma, nel miglioramento di Abate, del quale si parla molto giustamente, c'è questa caratteristica fondamentale del sostegno che ha avuto dei suoi compagni di centrocampo per lasciarlo meno, cioè raramente nell'uno contro uno che nella stagione scorsa era stata letale. Ma questo discorso complessivo è vero, poi sui due derby ci sono delle valutazioni ancora più specifiche che andrebbero fatte, tipo la scelta di Materazzi su Ibrahimovic nella gara di andata e l'atteggiamento con cui le due squadre sono entrate in campo, totalmente opposto al ritorno, pur avendo l'Inter un grande slancio emotivo e avendo il Milan assenze importanti come quella di Ibrahimovic. Però il discorso di Allegri è vero, non mi sembra che non sia stato notato, anzi è stato puntualizzato e sottolineato da molti nel corso della stagione. In Europa, per vincere, perché di questo si è parlato anche ieri, serve uno scatto in più, serve un atteggiamento diverso anche dal punto di vista del gioco, dell'essere propositivi. Non a caso il Milan di Ancelotti ha vinto e ha fatto meglio in Europa rispetto al calcio italiano, perché queste caratteristiche spesso sono proprio opposte. Cioè, in Italia si vince soprattutto e prima di tutto con l'organizzazione difensiva, in Europa bisogna fare qualcosa di diverso. Anche l'Inter di Mancini, anche l'Inter di Mourinho avevano queste caratteristiche, soprattutto naturalmente l'Inter del primo anno. Però il problema è sempre anche quello della società, perché Allegri ha fatto benissimo, ha acquisito grande esperienza in maniera molto rapida nel suo primo anno, pur avendo commesso qualche errore, ma se Allegri fosse andato alla Juventus avrebbe fatto una fine molto diversa da quella di Del Neri, pur avendo caratteristiche diverse da allenatore. Questo è difficile da dire, ed è più probabile pensare che alla fine Allegri, non tutelato dalla società, con una rosa non adeguata completamente alle sue richieste e alle sue aspettative, avrebbe fatto fatica, quasi come Del Neri, se non esattamente come Del Neri. Diego da Brescia, prego. Buongiorno, uno sfogo da juventino deluso, almeno io così per adesso mi sento. Veniamo da anni dove abbiamo cercato un allenatore e purtroppo la storia parla da sé. Quest'anno ci stanno facendo credere di aver trovato l'allenatore giusto. Tanto di cappello Antonio Conte per quanto ha fatto alla Juventus da giocatore e da capitano, però questo fatto che lui si presenti in conferenze stampe di fronte ai tifosi, alla gente, ai giornalisti, già senza voce, mi preoccupa. Vabbè, però è la sua, è così, non è che tanto diversa. È la sua, però, questa. Però io dico questo, se è senza voce adesso che non abbiamo cominciato a giocare, chissà quando sarà il 30 di settembre o il 20 di ottobre come sarà. Poi guardi, sul mercato io veramente dico solo una cosa, purtroppo siamo, ripeto, alla stessa identica situazione degli anni scorsi, ovvero ci vogliono far credere a tutti i costi che ci sono i soldi che faranno il grande colpo, che ci sarà il grande colpo, però purtroppo mi creda, io sono ottimista di natura, ma con la mia Juventus devo solo rivolgermi e sperare che succeda qualcosa, ma per il resto io tanto di cappello a Pirlo, per l'amor del cielo, non voglio dire niente di Schneider, un buon giocatore, però ecco, per il resto penso proprio che ci sarà un altro anno, ancora l'ennesimo, di sofferenza. Ecco. Va bene Diego, stia su col morale, naturalmente insomma il discorso è ampio anche qui, c'è un discorso che riguarda i giocatori da cedere che hanno ingaggi mostruosi. Prima Marco Bellinazzo raccontava 14 milioni solo per Amaury, a quinta tasse comprese ogni anno, e quello che spende la Juventus è una cifra impressionante rispetto al rendimento di questi giocatori, al di là del primo anno ottimo di Amaury alla Juventus. E poi Pirlo, che ha 32 anni, che arriva con un ingaggio pesantissimo di 4 milioni per 3 anni. Ecco, l'anno scorso la squadra aveva delle carenze sugli esterni, un po' sono state colmate, non sono arrivati due difensori, soprattutto Ziegler, di altissimo profilo. Lichtsteiner migliora certo il livello precedente sulla destra, il problema della difesa, e ne abbiamo già parlato, insomma un po' di cose da vedere e rivedere, con Conte che sicuramente ha grande spirito, ha grande voglia, ha ottime idee, però poi deve essere messo in condizione anche di applicarle. Sentivo qualche giorno fa il presidente Mezzaroma del Siena che diceva: c'è D'Agostino al Siena quest'anno, l'abbiamo preso perché è un giocatore diverso rispetto a quelli che voleva Conte negli anni scorsi a centrocampo, ne abbiamo cambiato allenatore, quindi può arrivare ad D'Agostino che insomma come caratteristiche è simile a Pirlo, quindi non è una cosa molto utile e che lascia sperare bene per i tifosi della Juventus. Però vedremo, perché il mercato è lungo, la situazione di Giuseppe Rossi è ancora in alto mare. Villarreal lo vende solo a cifre veramente importanti, 35 milioni. La Juve al momento è ferma su 25, vorrebbe inserire un giocatore, bisogna vedere se a Villarreal questi giocatori interessano o meno. Insomma, vedremo, però il mercato è lungo. Della Roma non si parla mai, che di Carlo da Pescara no, ne stavo per parlare ora perché c'è l'ultima ora di Francesco Totti. Mi aspetto una grande squadra per una grande stagione, cerchiamo più continuità dei risultati quest'anno. Luis Enrique al lavoro, il progetto della Roma mi sembra molto più interessante e accattivante al momento rispetto a quello della Lazio, che certo è basato sulla stabilità e l'esperienza, però anche lì due attaccanti, praticamente uno di 30 anni Sissé e l'altro di 33 Klose, con ingaggi molto alti, 2 milioni per 3-4 stagioni a Sissé, sono cifre che rappresentano insomma al momento l'idea attuale di mercato che abbiamo in Italia, che è completamente diversa rispetto a quella di altri paesi. Rapidamente Piero da Perugia, poi il traffico, prego Piero. Buongiorno, mi è consentito democraticamente fare un piccolo riprovero? Certo, perché siamo in democrazia, però veloce. Nel campionato italiano, quando si parla di campionato italiano, inevitabilmente tutto lo spazio viene riversato su Inter, del Lecce, del Catania, del Cesena, del Cagliari, o della stessa Lazio che lei poc'anzi ha menzionato, che secondo me sta allestendo una squadra poderosa e che vedrete sarà la sorpresa se tutto va bene, perché la squadra ha mancato di personalità. Ora ce l'ha questa personalità e credo che darà soddisfazione ai propri tifosi. Ma a me quello che interessa, ma perché il Catania appartiene al campionato italiano? Di cosa vogliamo parlare? Mi dica lei. Sempre Juve, Inter, Milan. In Italia ci sono anche Napoli, Udinese, Lazio, Roma nei giorni scorsi. Catania, Lecce. Ci arriviamo. Non si preoccupi che tutto in programma e in scaletta. Ci segua con affetto con piacere, e sarà grazie. Soddisfatto, Piero. Democraticamente. Sempre. Arrivederci. Valentino da Udine risponde al dolore del tifoso udinese precedente dicendo: Pozzo ha fatto benissimo l'anno scorso. Si diceva che non ci saremmo salvati avendo venduto Pepe, D'Agostino e Felipe e comprato Pinzi, Benatia e Armero. Sappiamo com'è andata. Mentre un tifoso milanista dice: vorrei difendere i dirigenti della Juve, credo che per loro fare mercato sia molto difficile, non avendo la PIL della Champions devono offrire molto molto di più per prendere campioni. Questo è vero ed è una considerazione che è data per scontata, però è giusto anche ribadirla. Anche Mirko chiede notizie su Bologna, domani ci arriviamo, è tutto già programmato, non posso anticiparvi tutto, però state tranquilli, abbiate fiducia, democraticamente parleremo di tutti anche domani. Andrea dalla provincia di Roma, prego. Pronto? Sì, dica. Ah, salve, complimenti per la trasmissione intanto. Senta, volevo fare due domande. Io sono un tifoso del Napoli. Una riguarda la mia squadra, insomma, io non so se lei è d'accordo. Trovo un poco che si sta ingolfando, insomma, di acquisti. Troppi giocatori, secondo me. Cioè, il Napoli di quest'anno, insomma, era un gruppo unito. Ho l'impressione che possa, insomma, prima che si possa rodare questa macchina nuova, insomma, penso che abbia qualche difficoltà all'inizio di campionato. Ok, e l'altra? Poi dopo se le rispondo mi dica anche... Sì, l'altra domanda riguarda... Io ho una forte sensazione riguardo, insomma, gli emolumenti che i giocatori hanno. Insomma, io ricordo che ai tempi di Zidane, di Vieri, insomma, c'erano arrivati dei picchi alti. Poi sono stati ridotti drasticamente. Ho la forte sensazione che si stiano rialzando. Non so se lei è d'accordo. Beh, i giocatori hanno un potere enorme anche all'interno, come dire, delle dinamiche di spogliatoio, e questo dipende sempre dalle società e si può cercare di limitarle con una gestione che dia sempre sostegno all'allenatore. Insomma, un discorso questo molto ampio, e evidentemente quando Mourinho dice l'allenatore deve essere quello che guadagna di più, oltre a fare come sempre i suoi interessi, dice come quasi sempre anche una verità, nel senso che i giocatori poi, come precisava lei, se hanno potere economico dal punto di vista dell'ingaggio, poi questo diventa difficile, più difficile da gestire. Ci sono sempre anche lì delle proporzioni, nel senso che quando si parla di Ronaldo, Messi e altri campioni c'è un senso, quando si parla di giocatori di medio livello con ingaggi spropositati, il senso è meno comprensibile. Sul Napoli non credo si stia ingolfando, anzi, nel senso che aveva bisogno di alternative di qualità, cosa che era mancata l'anno scorso. Ha fatto un grande campionato con una rosa limitata, se l'è giocata in Europa League sino al massimo delle sue potenzialità, con un errore, uno dei pochi da rimproverare a Mazzarri nel corso della stagione, di aver lasciato in panchina Cavani nella prima parte della gara di ritorno con il Villarreal, dove poi il Napoli ha perso ed è stato eliminato. Però le alternative servono, e ne servono ancora di più rispetto a quelle attuali nel reparto offensivo, perché Cavani e Lavezzi arriveranno dopo la Coppa America, che è sempre comunque qualcosa che rompe un po' gli equilibri nell'inizio della stagione di un calciatore. E insomma, serve un'alternativa di livello, perché la Champions richiede questo per essere competitivi. Ezio da Bari, prego. Buongiorno, sono Ezio, sono un tifoso del Milan e volevo ricollegarmi a quello che ha detto un ascoltatore tempo fa. Sì. Cioè, sulla questione di Allegri. Sì. Allegri è bravo, e non discuto adesso io i campioni, Pirlo sicuramente presi, però ho avuto fortuna perché Pirlo si è infortunato. Il Milan non ha vinto nulla negli ultimi anni, perché dopo Kakà e le sue fiondate, le sue penetrazioni con Sidorf e Pirlo, il Milan rallentava troppo il gioco. Sì, aveva un passo, è vero, aveva un passo prevedibile. Aveva solo la fortuna quest'anno che Pirlo si è infortunato e non ha dovuto rompere l'equilibrio di spogliatoio, se no non avrebbe fatto nulla neanche Allegri. Vabbè, però ci sono, Ezio, ci sono dei momenti che segnano la carriera e le stagioni di ogni allenatore, di ogni squadra. La capacità è anche quella di affrontarli, superarli e trarre anche dalle difficoltà iniziali, perché comunque l'assenza di Pirlo, che adesso non vorrei essere frainteso, l'ho considerato un fuoriclasse totale, cioè uno dei più importanti giocatori di qualità e di talento del calcio italiano, non a caso miglior giocatore del campionato del mondo del 2006, quindi non fraintendiamoci, stiamo parlando dell'attualità, delle caratteristiche della squadra che è costruita in parte anche su di lui. Attuale la Juventus in un centrocampo diverso. Lui ieri ha detto in un centrocampo a due ho giocato con Leonardo. Sì, è vero, e la stagione è stata discreta. Sì, però il Milan ha recuperato incredibilmente quella partita con la Roma in casa, quando stava perdendo e ha rischiato di subire anche il secondo gol all'inizio del campionato, e la situazione stava per deflagrare. In Champions ha subito batoste pesantissime da Manchester United, quindi Pirlo ieri ha detto una mezza verità: non era una squadra equilibrata come deve essere una squadra che punta a vincere quel Milan di Leonardo. Su quanto diceva l'ascoltatore da Bari, Allegri ha saputo cogliere il momento, la difficoltà l'ha saputa trasformare, e ha saputo, trovando nella società una sponda importante, perché anche questo è fondamentale, ha saputo chiedere giocatori con le caratteristiche secondo lui necessarie, quindi Van Bommel, eccetera, eccetera. A domani parleremo democraticamente anche di altre squadre. Ora vi lascio ringraziando come sempre Franco Piantanida in redazione e Mauro De Angeli in regia, salutando Carlo Genta, che continua anche in vacanza a coltivare la sua nuova passione. A domani. Cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Massimo, Franco, gentile ascoltatore, buon pomeriggio. Io sono ancora al mare, sono ancora qui a prendere le onde, ho la mia tavola da surf sotto il braccio. So che voi parlate moltissimo di calcio, allora per questa seconda lezione di surf, di cui ho tremendamente bisogno, parliamo oggi con un nostro infiltrato, perché Giovanni Zurlini lavora per l'Inter ma è solo una copertura, lui in realtà è un surfista. Giovanni, buon pomeriggio. Grazie, buona giornata. Buongiorno, senti, io ho bisogno di qualche consiglio pratico. Dunque, spiegami un attimo, adesso le onde ci sono, cielo coperto, vento da sud-ovest, l'onda è discreta, adesso io so come entrare in acqua, spiegaci cosa devo fare una volta che sono lì, come prendo l'onda? Ma allora è importantissimo uscire e posizionarsi sulla line up, presumo che questo tu l'abbia già imparato grazie ai consigli di qualcuno. Comunque è importantissimo posizionarsi nel punto giusto, è tutta una questione di dove si prende l'onda, sia orizzontalmente che a livello verticale verso la spiaggia. Diciamo che guardando, c'è sempre di solito qualcuno che sta sul picco, che di solito è il surfista più bravo, il più vecchio, il più, tra virgolette, arrogante, e bisogna sistemarsi vicino a lui per prendere la posizione corretta. Appena uno ha la posizione corretta, forza di braccia e tante remate. Senti, ma quando io, sarà una banalità, io remo, arrivo sulla linea dell'onda, poi mi giro, c'è un momento in cui devo fare quel famoso scatto per salire sulla tavola? Allora, intanto tu hai una longboard o una shortboard? Longboard. Longboard, ovviamente, fantastico. Con la longboard il movimento va molto anticipato rispetto alla shortboard, quindi quando uno capisce e vede che si sta alzando, si sta formando l'onda, a quel punto si gira e inizia a remare verso la spiaggia. C'è un momento in cui l'onda da dietro ti solleva la tavola, ti solleva il tail e ti fa sentire come una spinta. Questa spinta, in quel momento in cui tu senti di partire, allora lì ci si alza col busto, ovviamente ti hanno già insegnato, mani sotto le ascelle ad altezza spalla, si impugna bene la tavola, si tira su prima benissimo la testa, inarcuando la schiena, e poi via una gamba e poi l'altra, e poi baricentro basso e si inizia a surfare. E lì vado fino a dove l'onda mi porta, o fino a quando non cado dalla tavola, giusto? Esattamente, cercando di bilanciare il tuo peso a seconda delle varie sezioni dell'onda, quindi puoi rallentare, puoi accelerare, puoi fare, quando diventerai bravo, puoi fare qualche passettino in avanti verso la punta o fare qualche passo indietro verso il tail in modo da dirigere, direzionare la tua tavola in altro modo. Fantastico, sono pronto, allora adesso posso anche provare. Giovanni, io ti ringrazio moltissimo, ti lascio al tuo passatempo che è lavorare per l'Inter in attesa di tornare al lavoro vero che è quello tra le onde, la passione vera che è quella tra le onde. Io saluto i nostri amici ascoltatori, l'appuntamento con le lezioni di surf è naturalmente a mercoledì prossimo quando, ahimè, sarò già tornato e vi racconterò com'è andata. Buona giornata a tutti. Mai quest'onda.